Corso biblico 1980, storia e salvezza nel Vangelo secondo Luca. Prima lezione, martedì 26 febbraio, ore 18. Regno contro regno, le tentazioni di Gesù nella redazione di Luca. 1, 2, 3, prova. Parola di introduzione, per il semplice fatto che, pur essendo nella solita sede in cui buona parte almeno di questo pubblico so che si raccoglie con veramente con piacere e con diligenza, se essendo anche l'oratore che voi già ben conoscete, tuttavia il quadro in cui questa serie di incontri si pone è diverso ed è promosso questo piccolo corso dall'Istituto di Scienze Religiose di Trento, che ho l'onore di presiedere, e per questo si giustifica anche questo mio intervento e questo saluto che ho piacere di rivolgervi. Per sé era questa un'iniziativa tendente veramente a mettersi sul medesimo piano di molti sacerdoti, religiosi e laici che diventano attenti a un discorso teologico alquanto più riflessivo e approfondito. In questo senso noi siamo già al terzo anno di iniziative consimili, però che qui vengono ricordate semplicemente per dovere di cronaca e anche per poter un po' inquadrare le intenzioni e le finalità del nostro corso e contemporaneamente per mostrare anche la giustificazione della cornice in cui l'iniziativa si pone. Abbiamo fatto 2 anni fa un breve corso di 4 o 5 incontri, se non erro, qui in questa medesima sala, sulla introduzione allo studio delle scienze teologiche in quanto tale. Lo ha tenuto un salesiano trentino che insegna a Roma, il padre Donato Valentini, che certamente ha fatto un discorso molto, molto sopraffino, ma anche alquanto difficile, forse non sarebbe generalizzabile per un pubblico come quello qui presente. È stato però seguito con molto interesse e con molto frutto. La seconda tappa è stata lo scorso anno, quando il professore titolare della cattedra di morale del seminario di Padova, il professor Trentin, ha tenuto un analogo corso di introduzione alla teologia morale, no? E così logicamente siamo oggi a un corso che in qualche maniera vorrebbe risolvere o avvicinarci a un problema di introduzione agli studi biblici, introduzione alla lettura, ma alla lettura comprensiva, alla lettura sensibile della parola di Dio, un accostamento, un approccio, come si accosta un testo biblico per ricavarne quelle riflessioni vive che ti aiutano a costruire sia una conoscenza scientifica, sia un approfondimento della nostra fede. E è in questo testo che sono state predisposte queste conferenze che tentano di fare un ragionamento introduttivo, avete capito, introduttivo, di approccio vivo, diremo, di uno dei testi biblici più veneranti che abbiamo, cioè il Vangelo di San Luca, che proprio quest'anno costituisce anche oggetto di attenzione particolare perché insomma sta sul leggio dell'ambone per tutto l'anno liturgico. Luca, che è sommamente interessante anche al di là del puro interesse di fede, perché è contemporaneamente il più storico degli evangelisti e insieme anche il più scrittore, il più qualificato dal lato filologico, vero? Per una certa presentazione della letteratura, del modo di presentarsi dello stesso linguaggio delle idee cristiane. L'oratore, ho detto, non c'è bisogno di presentarlo, è il nostro carissimo amico Don Renzo Zani, che a titolo reduplicato, però di parlare anche in questa sede, perché è membro del comitato scientifico del nostro Istituto di Scienze Religiose e insieme anche membro della giunta direttiva dello stesso Istituto di Scienze Religiose, quindi non vi dico di più, vi presento la perla che abbiamo e mi metto con voi ad ascoltarlo. Scusate, un piccolo avvertimento, questa conferenza viene ritrasmessa domenica alle 9, se non erro, dalla Radio Popolare, così potete anche renderla nota a quelli che gli stanno intorno in famiglia, se poi ci fosse qualcheduno che gradisce ancora qualcuno di questi programmi, può richiederli al nostro segretario oppure farseli dare a Lucia. Ecco, dopo la presentazione generale del corso, due brevi parole ancora per giustificare la scelta di questi temi. La scelta corrisponde a un criterio metodologico, nel senso che Luca è uno dei tre Evangeli sinottici. Ora, per cogliere meglio la mentalità, forse diciamo con termine più corretto, la teologia di un Evangelo sinottico, è molto utile fare un confronto con gli altri due, vedere le modifiche che ha introdotto, vedere i tratti che ha aggiunto o le omissioni che egli ha compiuto. Così i temi che verranno svolti a cominciare da oggi seguono questo criterio. Il primo, le tentazioni, presentano un parallelo molto simile in Matteo. I prossimi due incontri affrontano due brani di Luca che hanno soltanto qualche riferimento in Matteo e in Marco, mentre gli ultimi due incontri, la parabola del Padre Misericordioso e l'incontro di Gesù coi discepoli di Emmaus, sono due brani esclusivi caratteristici di Luca. Cominciamo subito con il primo, regno contro regno, le tentazioni di Gesù nella redazione di Luca. Tutti e tre i Vangeli sinottici ci ricordano che Gesù, dopo essere stato battezzato nel Giordano, si ritirò nel deserto per subire gli assalti del diavolo. Già questo fatto, cioè che Gesù sia stato tentato, ci pone nel cuore di questa persona, che noi cristiani riconosciamo insieme come Salvatore dell'uomo e come Figlio di Dio. E già questo primo brano, quindi, ci mette di fronte al grande mistero del male morale, dell'ingerenza delle forze del male nella storia dell'umanità. L'episodio delle tentazioni è riferito in due maniere diverse. Anzitutto c'è Marco che dà una notizia molto breve in due versetti. Subito lo spirito lo spinge nel deserto ed era nel deserto 40 giorni tentato da Satana ed era con le fiere e gli angeli lo servivano. Poi c'è un racconto più completo e circostanziato di cui abbiamo due redazioni, quella di Matteo e quella appunto di Luca. In questo incontro ci limitiamo prevalentemente all'analisi di Luca e prima di passare ai dettagli leggiamo insieme quanto lo stesso evangelista Luca scrive. Gesù è al capitolo 4, versetti da 1 a 13. Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: «Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, lui solo adorerai». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, buttati giù. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordine per te perché essi ti custodiscano, e anche Essi ti sosterranno con le mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: è stato detto, non tenterai il Signore Dio tuo. Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. I primi due versetti che abbiamo letto costituiscono l'introduzione all'episodio, e già in questa introduzione possiamo notare due annotazioni caratteristiche di Luca che mancano, cioè, nel racconto parallelo di Matteo. Le due caratteristiche sono queste. Anzitutto, Gesù pieno di Spirito Santo. L'espressione pieno di Spirito Santo è abbastanza cara a Luca e nel Nuovo Testamento ricorre solo nelle sue opere, cioè nel Vangelo e negli Atti. Cito solo un esempio: Stefano pieno di Spirito Santo, Maria, Elisabetta, Zaccaria pieni di Spirito Santo. La seconda annotazione, anche esclusiva di Luca, si allontanò dal Giordano. Perché Luca inserisce queste due aggiunte? Per un motivo molto semplice. Dopo aver raccontato il battesimo di Gesù, Luca ha rotto il filo del racconto inserendo tutta la genealogia di Gesù. Ora lui vuole che il lettore capisca che per comprendere l'episodio delle tentazioni non ci deve fuorviare quella lunga lista di nomi. Vuole cioè che il lettore comprenda il fatto delle tentazioni come strettamente congiunto con l'episodio del battesimo. Quindi Luca, con queste due annotazioni, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano, quasi vuole riparare a quell'inserimento della genealogia di Gesù e vuole ricondurre il lettore direttamente all'episodio precedente al battesimo. Gesù, battezzato nello Spirito Santo, si allontana dal Giordano e era condotto nel deserto. Cioè, mentre girava nel deserto, mentre viveva nel deserto, era condotto, cioè era accompagnato, era assistito dallo Spirito Santo. E dice Luca che questo periodo durò 40 giorni. Matteo aggiunge 40 notti. Vedremo il perché di questa aggiunta di Matteo. E in questi 40 giorni, continuamente, dice Luca, fu tentato dal diavolo. E di queste tentazioni egli riporta soltanto le tre ultime, le tre che quasi costituiscono lo schema, il modello delle tentazioni subite da Gesù nel deserto. Ora già qui abbiamo una chiave profonda di lettura. Contro Gesù si scatena da un lato la forza di Satana. Dall'altro lato Luca ribadisce che Gesù, pieno di Spirito Santo, era condotto dallo Spirito. Quindi in Gesù abbiamo il centro di una lotta, da una parte delle forze del male, dall'altra l'assistenza dello Spirito Santo, e questa lotta avviene nel deserto. Ora sappiamo che per la Bibbia il deserto è il luogo sterile per eccellenza, è quasi un ritorno della natura al caos primitivo, e Satana lì ha la sua sede. Nel deserto viene cacciato il capro espiatorio. Satana ha tentato Gesù nel suo territorio, ed è stato sconfitto. Ma il deserto per la Bibbia ha anche un altro significato. È il luogo in cui il popolo ha fatto esperienza di Dio. Il luogo dal quale, dice il libro degli Atti, al capitolo 21, si attendeva la venuta del Messia. Quindi è il luogo di Satana per un certo aspetto, ma per un altro aspetto il deserto è anche il luogo dell'incontro con Dio. E la tentazione è ricordata per ben 3 volte. Al versetto 2 fu tentato, al versetto 12 non tenterai, al versetto 13 dopo aver esaurito ogni specie di tentazione. Gesù figlio di Dio, Gesù guidato dallo Spirito, non è sottratto alla prova, cioè il battesimo che ha appena ricevuto non lo separa dalla storia, dalle sue ambiguità, dai suoi problemi, dalla lotta che in essa si svolge. Poi viene, dopo questa introduzione, la prima tentazione. C'è una diversità fra Luca e Matteo. La prima diversità è questa: se sei figlio di Dio, dia questa pietra che diventi pane. Matteo usa il plurale: dia queste pietre che diventino pane. Giustamente nell'introduzione è stato sottolineato come Luca è l'evangelista più attento anche alle sfumature, anche allo stile. Ora per sfamare Gesù basta che un sasso diventi pane. Quindi mette il singolare proprio per una preoccupazione di verosimiglianza. Dia questa pietra che diventi pane. Ma ciò che ci interessa maggiormente è l'altra novità. Luca stranamente abbrevia la risposta di Gesù. La risposta di Gesù in Luca è così: sta scritto che non di solo pane vivrà l'uomo. E Matteo aggiunge: ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E questa omissione di Luca è veramente strana se teniamo presente che il suo secondo libro, gli Atti degli Apostoli, praticamente costituiscono una teologia della parola che si diffonde da Gerusalemme fino agli estremi confini della terra. Ebbene, qui l'accenno alla parola che esce dalla bocca di Dio viene omesso. Spiegherò dopo il perché. Va notato che questa tentazione non è proposta a Gesù per sfamarsi. Non vien detto a Gesù: dia questa pietra che diventi pane perché tu ne possa mangiare. È una tentazione alquanto strana. L'interesse del demonio non è proporre a Gesù di trasformare un sasso in pane. Quando uno è affamato ha 1000 altri mezzi per sfamarsi. A nessuno è mai venuto in mente di trasformare i sassi in pane. La tentazione è più profonda, il verbo mangiare non c'è. La tentazione è un spingere Gesù a intaccare il programma che Dio gli aveva fatto capire al momento del battesimo. Tu sei il servo, il figlio che svolge il ruolo del servo di Yahweh. Gesù è tentato di rompere questa proposta. Quindi è una tentazione non di sfamarsi con dei sassi trasformati, ma di usare del proprio potere miracoloso per rendere più facile tutta la sua esistenza. Poi viene la seconda tentazione. In questa seconda tentazione Luca inserisce alcune modifiche. È la tentazione di tutti i regni della terra che vengono fatti vedere in un attimo a Gesù e a lui promessi purché adori Satana. Questa tentazione Matteo la colloca come terza, Luca l'anticipa al secondo posto. Dopo Luca introduce altre particolarità. Anzitutto non dice che il diavolo ha condotto Gesù su un alto monte, perché Luca, proprio a causa della sua sensibilità, sa che non c'è nessun monte su questa terra dal quale si possano vedere tutti i regni. Quindi dice semplicemente che lo condusse su in alto. E invece sottolinea che più che di una visione fisica reale si è trattato di una visione interiore. Li mostrò tutti i regni della terra in un attimo di tempo. Si tratta quindi di una visione interiore immaginaria. Ma la novità più grande di questa seconda tentazione è la seguente. In Matteo le parole di Satana che tenta sono 8. In Luca sono 28. Quindi dà una straordinaria accentuazione alle parole di Satana. In Matteo le parole sono molto brevi. Tutto questo ti darò se prostrandoti mi adorerai. 8 parole. In Luca 28. Non ti darò tutto questo, ma ti darò tutto questo potere e la loro gloria, e la sua gloria. È una tentazione di avere la exousia, cioè una potenza. Ed è anche questo caratteristico di Luca. Nel suo Vangelo molte volte il potere politico è una potenza che ha una connotazione negativa, poiché è stata consegnata a me e io la do a chi voglio. La potenza politica per Luca nel Vangelo molte volte è sinonimo di pericolo, è sinonimo di tentazione. E ripetutamente afferma che questa potenza è stata data ai singoli uomini direttamente da Satana. Forse il brano più chiaro in questo senso è in Atti, al capitolo 26, versetto 18. È la chiamata di Paolo, ti libererò dal popolo e dai pagani, ai quali ti mando ad aprir loro gli occhi perché passino dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio. Ma Luca avrebbe anche altri brani che non cito per non dilungare eccessivamente l'incontro. È quindi una concezione veramente apocalittica. Regno contro regno. Il regno di Satana che è promesso a Cristo a patto che Cristo adori Satana. È una concezione questa che avvicina molto Giovanni a Luca e sappiamo che tra i sinottici Luca ha frequenti punti di contatto con la tradizione giovannea. È quindi una tentazione di potere, inteso come dominio e come acquisto di vantaggio, di gloria. E Luca è convinto che imporre il proprio dominio è una tirannia che non viene mai da Dio, ma sempre da Satana. L'imporre il dominio con la potenza, diremmo con la prepotenza, unicamente a propria gloria, è un'opera satanica. Risponde Gesù e ancora una volta la risposta è abbreviata. Le parole di Matteo, va via Satana, Luca semplicemente le salta. Quindi per una seconda volta le parole di Gesù abbreviate, quelle di Satana più sviluppate. e vedremo dopo ancora le conclusioni da tirare. Terza tentazione. Avviene a Gerusalemme. È quella che Matteo colloca al secondo posto, Luca la colloca al terzo, e c'è da aspettarselo, ancora una volta, le parole di Satana sono più complete. L'espressione «gettati giù e perché ti custodiscano», Matteo non lo dice, questo «perché ti custodiscano». E nella risposta di Gesù, ancora una volta, Matteo è più accurato. Matteo, da buon rabbino ebreo, cioè portavoce di un mondo ebraico, termina le tentazioni a modo di diatriba. Sta scritto, dice Satana, e Gesù gli ribatte, sta scritto anche. Questa diatriba, questa botta e risposta, Luca, di origine pagana, non la percepisce più e la omette. Ma ancora una volta, le risposte di Gesù vengono un po' attenuate. Giustamente quindi i commentatori notano, e questa annotazione è unanime, che in Matteo le tentazioni hanno una prospettiva cristocentrica, cioè Gesù è messo al centro. In Luca le tentazioni hanno una prospettiva satanocentrica, cioè Satana è posto al centro. Perché questo? Forse il perché ci risulta un po' chiaro se leggiamo la conclusione. La conclusione dice: terminata ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al tempo opportuno. Luca nota che le tentazioni sono finite, ma che Satana ha esaurito solo per il momento le sue possibilità. Ritornerà quando verrà il Kairos, quando verrà un momento opportuno. Matteo invece niente di questo. Il diavolo lo lascia e gli angeli si avvicinarono e lo servirono. Uno conclude con la vittoria strepitosa di Gesù che è servito dagli angeli, l'altro dice che è soltanto una tregua. Quando tornerà questo tempo opportuno? Tornerà al momento della passione. Luca quindi non termina parlando di servizio degli angeli, perché per lui le tentazioni di Gesù sono state soltanto la premessa, l'inizio di una lotta più tenace, di una lotta più furente. Quando verrà il momento? Lo dice espressamente lui. 22 capitolo versetto 3. Allora Satana entrò in Giuda. E al capitolo 22 ancora, versetto 53, quando lo hanno appena arrestato nel Getsemani, questa è la vostra ora e l'impero, la exousia, il potere delle tenebre. Dietro i nemici di Gesù nella passione, dice Luca, occorre vedere un protagonista più grande, Satana, che aveva iniziato l'opposizione al regno di Gesù già fin dall'inizio e ora prepara l'offensiva definitiva. E resterà vincitore, ma soltanto per 3 giorni. Luca quindi vede nelle tentazioni il preludio della passione. Questo cosa vuol dire? Che per capire le tentazioni bisogna avere presente il dramma del Venerdì Santo. E che il Venerdì Santo non lo si capisce se lo intendiamo soltanto come un dramma svolto unicamente dagli uomini. Ecco perché nel racconto delle tentazioni Luca non dice che gli angeli si accostarono a servire Gesù. Perché non lo dice? Perché questa annotazione la sposta al Getsemani. Lì Gesù, ed è soltanto Luca ad usare questa parola, è entrato in agonia, e agonia significa lotta. Un'agonia tremenda, tanto che sudò sangue. Lì rinnova la sua adesione al Padre e lì ne esce vittorioso e l'angelo viene a confortarlo. Capitolo 22, versetto 43. Facciamoci un'altra domanda prima di approfondire ulteriormente. Perché Luca ha spostato la seconda e la terza tentazione invertendole? Perché cioè ha collocato l'ultima tentazione in Gerusalemme? Anche qui il motivo è discretamente chiaro. Luca attribuisce un'importanza eccezionale alla città di Gerusalemme. È la meta di tutto il viaggio di Gesù. Un viaggio che comprende 10 capitoli, da 9 a 19, 9 dei quali sono esclusivi di Luca. Gerusalemme ritorna in momenti molto importanti. Gesù portato al Tempio, c'è la profezia di Simeone che già preannuncia la passione. Gesù è smarrito nel Tempio e dopo 3 giorni è ritrovato, perché deve occuparsi delle cose del Padre. Anche questo è chiaramente un tema che prelude alla Pasqua. Durante la trasfigurazione, Gesù, dice Luca, parla con Mosè ed Elia dell'esodo che avrebbe portato a compimento in Gerusalemme. Gerusalemme quindi è la città nella quale Gesù porta a compimento quello che viene chiamato esodo, dipartita, ascensione, o quella che viene chiamata lotta, scontro, agonia nei confronti di Satana. Dopo aver visto queste particolarità letterarie di Luca, scendiamo allora a cogliere un po' di più il suo messaggio. Normalmente è molto più noto il racconto delle tentazioni così come ci viene esposto da Matteo. E sappiamo tutti che Matteo nelle tentazioni cita 3 passi del Deuteronomio che riportano altrettante tentazioni e altrettante cadute di Israele nel deserto. La tentazione quando era affamato, abbrontolato. La tentazione quando non c'era l'acqua e la tentazione quando si sono prostrati ad adorare il vitello d'oro. Quindi in Matteo è molto chiaro questo tema. Gesù rivive l'esperienza di Israele nel deserto, rivive tentazioni molto simili, le supera tutte vittoriosamente. Gesù è il nuovo Israele, anzi addirittura il nuovo Mosè. Per questo dice 40 giorni e 40 notti, perché Mosè per 40 giorni e 40 notti era stato ammesso alla presenza di Dio sul monte Sinai. Qual è invece il senso in Luca? Possiamo esprimerci così da un punto di vista quasi locale. Matteo, quando medita sulle tentazioni di Gesù, guarda al passato. Guarda alla storia passata di Israele e mostra come quel passato è stato rivissuto da Gesù e in Gesù viene portato a compimento. In Luca invece lo sguardo è al futuro. Luca più che al passato di Israele, volge lo sguardo al futuro di Gesù e precisamente, come ho appena detto, alla sua passione e morte. Le tentazioni sono un aiuto per capire il dramma del Venerdì Santo. Le tentazioni sono l'inizio, i prodromi di una battaglia. Per questo Luca nelle tentazioni usa una particolare attenzione nelle parole di Satana. Satana è importante perché sarà il principale protagonista che scatena contro Gesù la forza dell'odio, la forza del male. Il racconto delle tentazioni quindi ci permette di capire, secondo Luca, quale è il vero nemico che porta avanti la resistenza contro Gesù durante la sua vita pubblica, durante il dramma del Venerdì Santo, durante la storia della Chiesa e primitiva e di ogni tempo. Il nemico che scatena la lotta è solo e sempre Satana. Quindi Luca interviene personalmente nel modificare il racconto delle tentazioni perché vuole che i credenti, i suoi lettori, prendano sul serio questa forza del male se vogliono capire non soltanto il mistero passato della storia di Israele, ma il mistero che ha coinvolto la resistenza contro Gesù e il mistero che lui, Luca, insieme con Paolo, sperimentava ogni volta che annunciava il Vangelo nelle varie città dei giudei o dell'impero. Quindi, piaccia o no, dice Luca, bisogna riconoscere che il demonio ha preso sul serio Gesù e viceversa, Gesù ha preso sul serio il demonio, lo considera come il suo principale rivale, colui sul quale occorre riportare vittoria. Gesù quindi ha coscienza che il demonio fin dall'inizio tenta di contrastare l'adempimento della sua missione, ma Gesù considera proprio nucleo centrale della sua missione una opposizione radicale e totale a Satana, perché la neutralità è impossibile. Ed è in questa prospettiva che occorre leggere le varie espulsioni del demonio alle quali Luca dà una particolare attenzione. A questo proposito mi limito a leggere soltanto tre passi che hanno, mi pare, un certo significato. Luca 11, 20. Se io invece scaccio i demoni con il dito di Dio, è dunque giunto a voi il regno di Dio. Gli avversari non sanno con quale potere Gesù scaccia il demonio, ritengono che lo scacci perché è alleato con Satana. Gesù dice: lo scaccio col dito di Dio. Dito di Dio o Spirito Santo è la stessa cosa. Digitus paterne dextere, cantiamo nel Veni Creator. Gesù scaccia il demonio con la potenza dello Spirito. Dunque è segno che è giunto a voi il regno di Dio. Quindi Luca non si accontenta di dire il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo, ma di questa vicinanza dà dei segni concreti, e i segni più concreti per Luca sono la vittoria perenne, ripetuta, di Gesù sul demonio. Quella vittoria è, dice un teologo tedesco, Jeremias, l'aurora del tempo della salvezza. Se Gesù scaccia il demonio, la venuta del regno è già alle porte e non può più tardare. E per questo Luca, quando manda i suoi discepoli in missione, darà sempre anche quest'ordine: scacciate i demoni. Poi leggo un altro brano esclusivo di Luca, Luca 10, versetto 18. I 72 tornano pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse: io vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore. È un'espressione che si richiama chiaramente a quanto vien detto nel libro di Isaia al capitolo 14, versetti 12 fino a 16. Gesù vede Satana piombare dal cielo, così come Isaia aveva visto cadere e piombare nel fango, nella polvere, il superbo re di Babilonia. Le parole di Gesù descrivono quindi la distruzione del potere di Satana con l'immagine della caduta, e ancora una volta il testo molto vicino è l'Apocalisse. Il dragone che è detronizzato. Ebbene, la missione di Gesù consiste in questa lotta. Lotta che comincia con lui, che egli dà il potere di portare avanti ai discepoli, cioè alla Chiesa. Questa lotta continua nella Chiesa, perché Satana, come si è sforzato di contrastare la fedeltà di Gesù al Padre, cercherà di contrastare la fedeltà dei discepoli alla via tracciata da Gesù. Lui, Satana, dirà Gesù a Pietro, mi ha chiesto di vagliarvi. Quindi al vaglio della prova è passato non solo Gesù, attraverso il vaglio della prova devono passare i discepoli. E un'altra espressione ricorre al capitolo 16, versetto 16, piuttosto oscura perché i termini greci sono ambigui. La legge e i profeti fino a Giovanni, da allora in poi viene annunziato il regno di Dio e ognuno si sforza per entrarvi. Si sforza è biazetai, che può essere medio, cioè si sforza, agisce vittoriosamente ma con forza, ma può essere anche passivo. Chiunque desidera entrare in esso è oppresso, è schiacciato, subisce cioè una prova. Qualunque sia però il senso, entra con forza, oppure subisce oppressione, è chiaro che per Luca l'ingresso nel regno comporta chiaramente delle violenze da parte di Satana, comporta degli ostacoli, comporta da parte del discepolo un costante impegno. E Tertulliano cita un detto di Gesù che circolava nella Chiesa primitiva, che non è però riferito nei Vangeli, che viene quindi chiamato un agrafon, un detto non scritto, non registrato, e questo detto dice così: nessuno entrerà nel regno senza essere passato attraverso tentazioni. Quindi possiamo dire che se Matteo si riferisce ripetutamente all'Antico Testamento, Luca dirige invece la sua attenzione verso il futuro della vita di Gesù, la passione, e verso il futuro della vita della Chiesa. Comunque, quanto vorrei sottolineare è questo, che tutti e due gli evangelisti non vedono le tentazioni come un episodio privato, personale di Gesù, ma lo inseriscono nella storia ampia della salvezza, o in quella passata o in quella futura. Quindi non è un puro episodio personale limitato a Gesù, ma un episodio che costantemente va letto sullo sfondo della storia della salvezza. E questo sfondo verrà particolarmente tenuto presente nella interpretazione che hanno fatto i padri della Chiesa. Certo, va precisato che queste tentazioni non si prolungano nella maniera uguale, identica, avuta da Gesù nei discepoli. Le tentazioni, così come Gesù le ha avute, sono state un'esperienza sua unica. Hanno avuto un chiaro carattere messianico, cioè un evento in cui Satana tenta di impedire, nel suo rappresentante più grande, l'inviato di Dio, l'adempimento del regno di Dio. Ma Luca ci avverte che queste tentazioni, anziché mandare a rotoli, anziché ostruire il piano di Dio, in realtà lo hanno rafforzato, perché appena terminato il racconto delle tentazioni, Luca dice: Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione, e il suo insegnamento quindi è accolto con universale consenso. Forse potremmo terminare aggiungendo un'ultima considerazione. Luca legge le tentazioni di Gesù tenendo presente principalmente la vicenda di Gesù e specialmente la sua passione, però amplia lo sguardo anche alle difficoltà dei discepoli, anche alle difficoltà della Chiesa. E questo perché? Perché subito prima delle tentazioni aveva narrato la genealogia, che termina in questo modo: figlio di Adamo, figlio di Dio. Gesù è figlio di Adamo che era figlio di Dio. Ebbene, dice Luca, Adamo, figlio di Dio, è stato tentato. Gesù, figlio di Dio, pure fu tentato. Adamo è stato vinto e nella sua sconfitta è stata trascinata tutta l'umanità. Gesù però è il nuovo Adamo. È quel discendente che già era stato promesso ad Adamo ed Eva, e nella sua vittoria quindi trascina tutta l'umanità, diventando perciò non soltanto modello, ma forza per ogni cristiano. E Luca quindi ci dice: Adamo, figlio di Dio, fu tentato. Gesù, figlio di Dio e pieno di Spirito Santo, fu tentato. Non meravigliarti, tu cristiano, se già nel momento del battesimo sei diventato figlio di Dio, ma sei anche quotidianamente tentato, come Gesù e come Adamo, perché essere figli di Dio, essere battezzati, non costituisce una assicurazione che elimina le prove, elimina i rischi. Sant'Agostino commenta: la nostra vita in questo pellegrinaggio non può essere esente da prove, e il nostro progresso si compie attraverso la tentazione. Nessuno può crescere, può conoscere se stesso, se non è tentato, né può essere coronato senza aver vinto, né può vincere senza combattere. Ma il combattimento suppone un nemico e una prova. E le tentazioni di Gesù, così come le elenca Luca, le possiamo ridurre a tre verbi: avere, di a questa pietra che diventi pane; potere, ti darò tutta questa potenza e la sua gloria; e valere qualcosa, se vedono che ti butti giù e gli angeli ti sostengono, certamente agli occhi degli altri vali qualcosa. Avere, potere e valere. E queste tre passioni, queste tre tentazioni, penso che articolano la vita di ogni persona e il rapporto intrasoggettivo di ogni individuo. Le conosciamo anche attraverso la loro deformazione: avarizia, tirannia, vanagloria. Per il Vangelo, quindi, di Luca, Adamo, Gesù, l'uomo, ogni uomo è tra lo spirito che lo introduce nel regno di Dio e Satana che lo introduce nel suo regno dell'avarizia, della tirannia e della vanagloria. E l'uomo deve scegliere, non però partendo da zero, non cioè con una natura pura, ma partendo da una posizione decaduta e alienata, con un cammino quindi faticoso di liberazione. Però questa natura alienata e decaduta non è sola. Con essa c'è lo Spirito di Cristo, con essa c'è Cristo stesso. Perciò se Luca ha posto tanta insistenza sul demonio, sulle sue parole in questo Vangelo, non è per dirci principalmente quanto è forte la potenza di Satana, ma specialmente per dirci che egli esiste, che la neutralità è impossibile, ma soprattutto per assicurarci che Cristo lo ha già vinto. E allora possiamo veramente concludere riascoltando le parole di Sant'Agostino: tu fermi la tua attenzione al fatto che Cristo fu tentato. Perché non consideri che egli ha anche vinto? Fosti tu ad essere tentato in lui, ma riconosci anche che in lui tu sei vincitore. Bene, ringrazio l'oratore, ma ringrazio anche gli uditori, perché la vostra attenzione mi ha veramente meravigliato e ho gioito per essa. Una volta si diceva che un discorso rigorosamente scientifico poi lascia il cuore freddo e agli effetti religiosi è tutto come prima, bisogna voltar pagina. E per l'altro verso dicevano: discorso così da parroco, vero, fatto per l'edificazione, gli uomini di studio non lo prendono sul serio perché è fatto all'acqua di rose, no? Ci accorgiamo che un discorso rigorosamente serio, no, in queste cose è anche quello che religiosamente costruisce, e mi rallegro soprattutto non tanto che vi è stato presentato questo discorso, ma che è stato apprezzato e accolto come tale. Chi vuol fermarsi e porre all'oratore qualche domanda oppure proseguire la conversazione su questo tema è cordialmente invitato a farlo.